24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo primo appuntamento del 2012 con 24 ore in Europa. Buon anno! In primo piano l'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy, che hanno affermato l'intenzione di chiudere al massimo entro marzo il nuovo trattato salva euro. Intanto il presidente europeo Van Rompuy annuncia per il summit di gennaio una strategia anti-recessione. Andremo anche in Ungheria per raccontarvi le ultime da un paese che balla sull'orlo della recessione. Brutte notizie per l'Italia, quasi un europeo su tre, tra coloro senza speranza di trovare un'occupazione, vive nella penisola. Infine vi parleremo di un'Europa che viaggia sui treni notturni. In apertura il vertice franco-tedesco sulla Tobin Tax. La Germania e la Francia spingeranno per un accordo a livello dell'area euro, se non sarà possibile un'intesa a livello di Unione. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, spiegando che su questo tema non c'è ancora piena intesa nel governo tedesco. Sentiamo. L'alleanza Francia-Germania è la pietra angolare dell'Europa e non c'è futuro per l'Europa se ci sono divergenze franco-tedesche. Con queste parole il presidente Sarkozy sancisce il successo del colloquio con la cancelliera tedesca Merkel, che ribadisce l'intesa stretta fra Germania e Francia. Entrambe soddisfatte hanno annunciato importanti novità fiscali. Per la cancelliera tedesca il vertice europeo previsto a marzo per il Fiscal Compact, il patto di bilancio, sarà anticipato alla fine del mese di gennaio, e per Sarkozy sarà firmato entro il 1 marzo il trattato sulle regole di bilancio degli Stati dell'Unione Europea. Al centro dell'attenzione comunque la fuga in avanti di Parigi sulla Tobin Tax. Angela Merkel ha sottolineato la posizione invariata della Germania, che combatte da anni per la tassa sulle transazioni finanziarie, mentre Sarkozy prosegue nella sua decisione: applicheremo la regola sulla tassa finanziaria così come prevede la Commissione europea, gli altri verranno dietro. Sulla partita pesa il veto annunciato ieri da Londra. Si è parlato anche di Atene. Secondo la Merkel, la Grecia deve avere una chance, ma è un caso particolare, un'eccezione. Per Sarkozy si deve al più presto attivare il fondo europeo, ma i sintomi della crisi dell'eurozona sono chiari. Per il presidente francese la situazione dell'euro non è mai stata tanto tesa. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. I leader europei puntano a un sistema sanzionatorio più stringente per gli stati che non rispettano la tabella di marcia di riduzione del debito e anche a limitare l'eventuale scostamento dai programmi di risanamento economico. È quanto emerge dalla revisione della bozza sul patto fiscale anticipata dall'agenzia Bloomberg. La strategia antirecessione europea sarà al centro del vertice informale dei leader convocato per il 30 gennaio, lo ha dichiarato il presidente permanente dell'Unione, Herman Van Rompuy. E la nuova presidenza danese dell'Unione farà del suo meglio per garantire che l'Europa resti a 27. Non vogliamo un club a 17 o a 10, vogliamo che l'Unione proceda a 27, così il ministro degli affari europei Nicolai Vammen. È stata ancora una giornata pesante per Piazza Affari, che penalizzata dall'andamento degli spread ha fatto peggio delle altre borse europee. Il FTSE MIB ha perso l'1,67%. È stata ancora una giornata pesante per Piazza Affari che, penalizzata dall'andamento dello spread a 531 punti e dall'avvio difficile dell'aumento di capitale di Unicredit, ha fatto peggio delle altre borse europee. Il FTSE MIB ha perso l'1,67%. Sono andate male le azioni delle banche, con quelle del Monte dei Paschi che hanno accusato un tonfo del 14%. Dopo tale ribasso, la capitalizzazione di MPS è crollata a 2,1 miliardi, valore esattamente in linea con l'aumento di capitale realizzato la scorsa estate. Unicredit ha visto andare in fumo un ulteriore 12,8% del proprio valore, nonostante i pesanti cali delle sedute precedenti. La capitalizzazione della banca è di 5,3 miliardi, livello inferiore all'operazione sul capitale da 7,5 miliardi appena partita. È inoltre andata male Fiat, scivolando di oltre il 6% e pagando le indicazioni deludenti sull'andamento delle vendite della Fiat 500 negli Stati Uniti. Fuori dal paniere principale, Premafin più 3,2% è salita ancora a dispetto della volata delle ultime sedute e dell'andamento debole della controllata Fondiaria Sai, che invece ha perso un ulteriore 7,3% nell'attesa di novità sul proprio futuro. Il mercato scommette che gli investitori interessati alla compagnia assicurativa punteranno alla scatola di controllo, ovvero la stessa Premafin. Eleonora Micheli da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per il premier populista conservatore ungherese Viktor Orban, la controversa legge sulla banca centrale, oggetto di critiche da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario, è assolutamente conforme ai trattati. Tuttavia, il suo governo è aperto ad ogni modifica se la Commissione indicherà proposte concrete. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio. Ordine perentorio della Commissione Europea, che chiede all'Ungheria di recuperare decine di milioni di euro in aiuti che aveva accordato alla compagnia di bandiera Malev. Per Bruxelles sono illeciti aiuti di Stato e l'autorità per la competizione afferma che la compagnia non avrebbe potuto trovare quei soldi sul mercato. Privatizzata nel 2007, la Malev è stata di fatto nazionalizzata di nuovo a febbraio 2010, quando il governo ha acquisito il 95% del suo debito. Immediato il comunicato della compagnia ungherese, che assicura l'operatività e sottolinea i buoni risultati dell'ultimo anno di esercizio. Intanto a Washington è arrivato il negoziatore ungherese Tamás Felleggi per iniziare a trattare col Fondo Monetario Internazionale l'ipotesi di un prestito anti-default da 15-20 miliardi di euro. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Nell'Unione Europea sono 8 milioni e 250 mila coloro che non cercano un impiego ma sono disponibili a lavorare, il 3,5% della forza lavoro. L'Italia è il paese con il più alto numero, ne conta ben 2,7 milioni. Quasi una persona su tre, senza più speranza di trovare impiego, è italiana. È quanto emerge dai dati Eurostat 2010. Ma come si trova lavoro in Italia? Sempre Eurostat conferma, grazie a parenti, amici o sindacati. Sentiamo. Altro che curriculum o inserzioni di lavoro. In Italia, oltre 2 persone su 3 in cerca di occupazione si avvalgono del più consolidato e utile giro di conoscenze, un amico, un parente o anche un sindacato. L'attestazione di questa modalità arriva da Eurostat nel rapporto sui metodi usati nella ricerca di lavoro, con dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno scorso. Il passaparola in Italia riguarda il 76,9% di chi cerca occupazione, superiore alla media dell'area euro, 68,9, a quella dell'Unione Europea nel complesso, 69,1%, e soprattutto circa doppia a confronto con quella di paesi come Germania, 40,2%, e Belgio, 36,8. L'Italia è anche tra i paesi che fanno meno affidamento sugli annunci di lavoro sulla stampa o sul web, con solo il 31,4% che risponde a un'offerta di impiego in questo modo. E per quanto concerne l'uso degli operatori istituzionali come i centri pubblici per l'impiego, l'Italia è penultima nell'Eurozona, con alle spalle soltanto 5. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la riforma della PAC si negozierà durante tutto l'arco del 2012 e si arriverà probabilmente a una fase finale di negoziato all'inizio del 2013. Lo ha affermato il ministro per le politiche agricole Mario Catania. L'Unione Europea ha ribadito le serie preoccupazioni per il programma nucleare iraniano e si prepara a presentare entro fine mese il rafforzamento delle sanzioni contro Teheran, lo ha confermato Maya Kocancic, portavoce della responsabile della diplomazia europea Cathy Ashton. Il colosso americano dell'alluminio Alcoa chiuderà 3 suoi stabilimenti in Europa, tra cui quello in Sardegna, il servizio. La scorsa settimana l'annuncio della chiusura definitiva di una propria fonderia in Tennessee e di 2 linee produttive a Rockdale, in Texas. Oggi la comunicazione della chiusura di 3 stabilimenti nel vecchio continente che impiegano complessivamente 1.500 persone. Uno a Porto Vesme, nel sud-ovest della Sardegna, per il quale è prevista la chiusura definitiva, gli altri 2 in Spagna, alla Corugna e Aviles, per i quali si parla al momento di uno stop temporaneo. Questi 3 impianti, fa sapere l'azienda, sono quelli con i costi più alti e l'obiettivo è di completare il piano entro la prima metà dell'anno, riducendo la produzione di alluminio del 12%, oltre 530.000 tonnellate in meno. Un piano resosi necessario a causa di una posizione energetica non più competitiva, combinata con costi delle materie prime crescenti e il crollo dei prezzi dell'alluminio. A questo punto Alcoa avvierà le consultazioni con i rappresentanti del personale e con i governi, impegnandosi a trovare soluzioni che riducano al minimo le conseguenze per i lavoratori. Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione, commenta il governatore della regione Sardegna Ugo Cappellacci. La Sardegna assicura affronterà al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie questa vertenza fondamentale non solo per il Sulcis Iglesiente, ma per tutta l'isola e considerata la valenza strategica del settore dell'alluminio per l'Italia e l'Europa. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia l'italiano e i lavoratori protestano da settimane, ma in Europa i treni notturni viaggiano ancora e costano poco. Sentiamo. Con il nuovo orario ferroviario entrato in vigore a dicembre, Trenitalia ha tagliato buona parte dei convogli notturni, costringendo chi viaggia da nord a sud a scomode coincidenze a Bologna o Roma. I treni di notte, spiegano l'azienda statale, sono in sostanza un relitto da eliminare, ormai sconfitto dalla concorrenza degli aerei low cost. Ma è davvero così? In Europa non tutti sono d'accordo. In Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Norvegia e Svezia i treni letto o cuccette ci sono ancora, anche per distanze che richiedono oltre 10 ore di viaggio e, a sorpresa, costano a volte meno che in Italia. Un esempio? In Svezia una famiglia di 4 persone, prenotando con un mese di anticipo, per andare da Stoccolma all'estremo nord del paese in cuccetta spende 410 euro, poco più di quanto costa alla famiglia italiana andare da Milano a Bari con il solo posto a sedere e cambiando treno a Bologna. Non è l'unico caso in cui i prezzi europei sono inferiori ai nostri, anche in Francia, Germania e Spagna le famiglie spendono spesso meno. Difficile accertare quanto questi prezzi siano sussidiati dallo Stato, anche quelli di Trenitalia comunque lo sono. Una cosa è certa, all'estero la ferrovia è in grado, a queste condizioni, di fare concorrenza anche all'auto e non solo all'aereo con i Frecciarossa. Lo sanno bene i viaggiatori che in questi giorni tornano in automobile da Puglia, Sicilia e Calabria a Milano o a Torino. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro primo appuntamento del 2012 con 24 ore in Europa. Grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.